Amici di Blu Radio Veneto, eccoci qua anche oggi. Andiamo a fare quattro chiacchiere con un personaggio che di cose da raccontare ne ha veramente tante. Lui è Claudio Rocchi e lo saluto calorosamente. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici e le amiche che ascoltano. Allora Claudio, siamo qua perché dopo tanto tempo è uscito un album che è tutto tuo. E quanti anni sono passati dall'ultima volta che avevi fatto un disco tutto tuo? Ma un disco, l'ultima cosa che ho pubblicato era nel 2007, la colonna sonora del film, ho fatto un lungometraggio, Pedra Mendalsa, una storia archeomagica che si svolge in Sardegna, della quale ho curato anche la colonna sonora, e quindi nel 2007 è uscito quello. Però un album proprio di canzoni inedite, nuove, poi a parte altre raccolte, compilation, cose così. L'ultimo album di studio con canzoni nuove era addirittura del 1994. Però era col mio nome e cognome, Claudio Rocchi, fatto dalla Polygram, e quindi è passato parecchio tempo. Ora questo è il mio numero 19 album, voglio dire, e si chiama In Alto, come hai detto, e sono canzoni rock, classicamente intese, chitarre elettriche, acustiche, basso, batteria, tastiere, voci, cori, spennellate di elettronica qua e là, perché io amo molto la musica elettronica, ho fatto anche un paio di dischi di musica elettronica in un periodo della mia vita di musicista, e questa volta ho integrato i due mondi facendo canzoni classicamente rock, ma appunto con dell'elettronica dentro. Ho capito. L'album, hai già detto tu, si intitola In Alto, è uscito un mese fa. Sì, è uscito da poco, a fine ottobre. Ecco, cosa ci trovi? Se tu dovessi raccontare, vabbè, l'hai già un po' spiegato in parole anche sintetiche e chiare, ma noi sentiremo dopo il singolo estratto che Eccoti vabbè, qui. Possiamo parlare dei contenuti, per quello che ho parlato della forma, del linguaggio musicale. I contenuti, se qualcuno si ricorda che cosa ho fatto io nella mia vita musicale, i miei dischi, Viaggio, Volo Magico, Essenza, Norma del Cielo, tutte queste cose qui, forse ha un'idea di che tipo di testi io ho sempre scritto, che sono comunque contenuti, testi che hanno a che fare con l'uomo, con i rapporti tra le persone, con la visione, il futuro, quello che a me piace chiamare lo sviluppo del potenziale umano. Quindi sono inviti, riflessioni, sintesi che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, ma anche la psiche, la coscienza, la mente. Questo è sempre stato un po' il campo nel quale mi sono mosso. E non c'è nessuna novità sconvolgente, non è che di colpo mi sono messo a fare rima amore con cuore, tesoro mio, mi manchi tanto, vieni qui che parliamo l'esperanto, capito? No, ecco, sono sempre io, sono Claudio Rocchi con il mio linguaggio, però nel 2011, ecco, questo è un dato reale, anche perché più reale del presente non c'è nulla. Io continuo a insistere, credo, amiche e amici, che esista solo il presente. C'è un'illusione che noi chiamiamo passato e chiamiamo futuro, in realtà il tempo esiste sempre soltanto al presente, e dal presente si possono fare delle escursioni in presenti fotografati da tempo e in presenti che ancora non stanno arrivando, però insomma, per quelli che sono un po' più smaliziati con gli affari di tempo e spazio, posso dire con una certa certezza che io non credo che il tempo sia una compresenza unica, nel senso che ci sono esperienze di cosiddetta preveggenza che ti fanno vedere in anticipo che succedono poi a distanza di anni, ma proprio nel dettaglio preciso. Io non è che devo credere a qualcosa che ho letto, ho avuto delle esperienze personali di sognare avvenimenti che poi in luoghi dove non ero mai stato, molto precisi, con dettagli precisissimi, che poi a distanza di 2 anni, ecco, che sono all'estero, fuori dall'Italia, in una nazione dove non ero mai stato, in un luogo, una piazza, una città dove non ero mai stato, e di colpo mi cresceva questa sensazione particolare di ma io questo l'ho già sognato, mi ricordo benissimo, ho sognato 2 anni fa quando ero nel mio letto a Milano, no? Per ipotesi. Sì, cioè li chiamano anche déjà vu in qualche modo, no? Déjà vu nel senso che tu vivi una cosa e ti sembra averla già vissuta, sì. No? Ma qui proprio io sogno un sogno precisissimo, passano 1 anno, 2 anni, 3 anni e quel sogno lì va in scena, preciso, preciso, preciso. Allora la domanda è, ma che cos'è il futuro? Se io 3 anni prima ho potuto vederlo in anticipo, capito? Vuol dire che c'era anche lì, in quel momento in cui io lo stavo sognando, no? Ecco, sì. Questo apre degli interrogativi sul tempo e sullo spazio molto interessanti. Sono un po' i campi della ricerca che ho sempre amato fare, anche per questo mi sono fatto monaco induista per 15 anni, per andare a studiare con l'esperienza delle filosofie e psicologie del profondo di quei mondi, che storicamente sono molto più professionali rispetto a quelli del pensiero occidentale, per capire un po' che cos'è questo sterminato dominio che abbiamo nella nostra psiche, che ha tra le altre cose la possibilità di farci viaggiare nel tempo e nello spazio, cosa non da poco veramente. Eh beh, interessante, no? Il tuo presente cosa ti sta dando? Soddisfazioni per quanto riguarda questo disco? Esagerate, guardi, esagerate, perché prima di tutto mi è tornata una gran voglia di suonare, sto programmando una stagione di concerti serrata per il 2012 e soprattutto vedo che i primi riscontri, recensioni, feedbacks su questo nuovo lavoro in alto sono più che soddisfacenti. Sono molto contento che forse storicamente nel tempo ho sempre patito una certa discronia con il tempo presente, nel senso che le cose che ho fatto o erano generalmente un filino a detta dei critici, delle cose avanti, secondo i gusti così diciamo medi del mercato. Adesso può darsi che questa volta, avendo io rallentato, abbia diminuito un attimo il gap, forse sono un po' più nel presente. Questo mi dà soddisfazione, perché l'idea è comunicare, scambiare, condividere, confrontarsi, quindi capire gli uni e gli altri come ci si può dare una mano. Le idee, essere persone migliori. Certo, allora ricordo che per conoscere qualche cosa di più c'è il sito www.cramps.it. Sì, che questa è la casa discografica, la Cramps, una casa storica che ai tempi era la casa di Area, Finardi, Camerini, Ege e altri. E poi vabbè, c'è Facebook, ovviamente, io Claudio Rocchi Volo Magico è il mio profilo su Facebook, Claudio Rocchi invece è la mia pagina, poi da lì si arriva un po' a tutti gli altri link per scoprire. Benissimo, allora Claudio, io sono sicuro che ci risentiremo, perché già con te abbiamo fatto delle interessanti chiacchierate alla sera con il programma Rock Wave, quindi ci sarà un tempo per far sentire magari tutto il tuo album e approfondire alcuni argomenti. Fantastico, bene, saluta gli amici di Radio Vento, Alberto ad esempio ricordo con certezza. E Maurizio, esatto. Ecco, allora. Saluti alle amiche e agli amici che ascoltano, soprattutto. Certamente, io ringrazio te, Claudio. Andiamo subito ad ascoltarci il tuo singolo. Si intitola Eccoti qui. Altre vite.